pezzettino di pane, tranquillo. Lo devi fare qualcuno, così ti guadagni un pochettino, un pezzettino di pane, sei a posto. Chiappa, chiappa. tu. Beige di colore. Aiuto, no, no, no, te ne dirà tutto. Non vuole molto nulla. Cosa me ne faccio la moto, ui? Ma prima cosa c'è freddo. Prima cosa. Dopo una cosa non posso prendere freddo io. Non aiutare con la mia figlia e mia sorella, che c'erano due comunite e se la presa lavorando. Io c'è dove di faccio, se ne piglio la moto allora torniamo come prima. Già c'è dolori reumatici io, il buio la moto guai. Ah bene, fitta, hai ragione. Beh, quando è così conviene evitare. Sì, sì, conviene evitare dove. Conviene evitare, sì. Paccappa. E allora, lavorando sento. E ieri ho lavorato. Ho fatto una faccia per un bagno in terra. Per mettere il tubo dello scarico come si chiama, l'accesso, poi ho assoluto devo fare lo scarico della vasca, del lavandino e del bidet. E quindi ne avrò per 4-5 giorni, una cosa del genere, poi le faccio per i tubi e poi lui si sta costruendo il bagno da solo, quindi. Non fa nulla perché c'è poco lavoro, si fa facendo la barricata sua. Vabbè, già va bene, ma è un amico, sì. Sì, sì, un amico. Mi stava andando la moto, dicendo non le faccio niente, mi ha detto. Alla voi, no, te ne dirà, ha detto. Oh, cosa me ne faccio? Caricamela così, infatti ci vogliono 200 euro di assicurazione. Più altri 150 euro di coso, di patentino. Cazzo, 400 euro, se poi ti mangio, giusto, e mangio bene. Però mesetto, quando ho detto c'avevo un coso mi compro la macchietta e se la piglia in culo, non devo stare a pigliarmelo un momento. E infatti a me ti conviene prenderti una macchinetta con le come tanche 50, quando devi fare le commissioni, sei tranquillo, sereno, né senza problemi, né sei capottato, né c'è un tetto sopra, e la motoretta è bella fino a un certo punto, ma solo per il vestivo. So. Per il vestito già va bene, perché dopo fare commissioni veloci poi devi stare anche molto attento, devi stare, prima quando scendi dal supermercato devi metterci la catena, se sono quei rumeni che ci sono ne trovi due, non mi sembra vero appartato portarsi via una moto, e devi dare sempre qualcosa, un pallino, quando sconfugi se la trovo o no, zitto, discorso anche quello, poi devi stare molto attento se ti attendi qualcuno in macchina addosso, adesso questo periodo è periodo strano, non tutti con la fretta sono, capito? E non ci mettono molto a buttarlo in terra. Ehi, infatti. È così. E purtroppo è dura, quei tempi che corrono, vanno via, guarda, come luglio questi motorini. Il ritorno da vecchio va bene, ma questo è un nuovo fiammante. Ne avrà neanche un mese di vita. Avevo fatto 5 minuti fuori dal supermercato. Ti ha lasciato lui. Ecco, adesso te lo voglio regalare perché non te lo prendi. Ah, me ne faccio niente. Non me ne posso più tutta. Ma che moto è? Scalabolo a 10. E quindi lo regalo a me, no? E tu ce l'hai già la moto, cosa devi fare, boh? Ascolta. Ascolta ti fai. Tu non fai niente di 50 moto che ti rimai. La collezione bevo, moto d'epoca bevo, la collezione. C'è uno qua sotto che ce li ha, c'è una bossa antica, c'è una fatta nuova, poi c'è un Girea, e un altro paio di moto, poi c'è un paio di macchine antiche, ogni sabato se ritratto lo vedo con qualche macchina nuova, una porta volta se la svernicia, se la mette a posto e poi c'è quella in giro, lui e il figlio. Dovrebbe essere qualche appassionato. Io non penso che la fili molto però fuori, perché le Vespe già sono ancora quelle nuove che sono molto ricercate. Quello è poco ma sicuro. E appunto per quello penso si fia molto. sabato e la domenica si fa un giro qua al quadrato, poi si piglia un caffè al bar, poi torna da lei dove uscio, evidentemente dimmi. Beh, già lo dite. Però ci hanno già doppiata, senz'altro. Sì, e beh, non ho detto a tutti, no. Sono carte cattive. Ma a me il burri per un nuovo uomo, cammina con me. Ho fatto la veloce, acqua, a centro storico, sono salito su a mangiare, sono sceso non c'era più. Quindi mi sono attaccato al bie. Ancora sono ricercate le cose, sono venuta qua. Sono ricercate questi ragazzini quando lo sanno già fare. Capito? Ho fatto una cosa parlata, te la prendo sotto il sedere. Sono carte acide. E poi c'è anche l'assicurazione, se ti dimentichi il foglio dentro, loro viaggiano tranquillamente con l'assicurazione, non possono fare niente, capito? Anche se ti danno in burata. Anche se tu c'è il libretto, loro possono viaggiare tranquilli, e tu hai pagato per un anno intero. Il problema è quello. Ehi. Ma che ci volevo fare? Pazienza, ci vuole. Cosa ci vuoi fare? Attenzione sul lince, prego. Avanti. Ciao Antone, buonasera Parchetto. Ciao Giuseppe, buonasera. Ciao Giuseppe, ben entrato, buona scusciata anche a te. E me, tutto bene? Tutto bene, ciò che finisce bene. È l'ultimo a chiudere la porta, il Giaguido. Eia, la squadra si è andata vicino 2-0, mi ho fatto. Dai, là, guardali. Cappa le rogero. E non sei contento? Ma Claudio non sta giocando oggi, no? Non te lo so dire, non te lo so dire, ma lo penso, se gioca a giocare di sabato. Capito? E allora, dottore, ti occupo qua, un bel tubo da un pollice e un quarto, un pollice e mezzo, se no non va bene, per l'antenna. Un tubo fine, ma largo, devi procurare. Dopodiché vuole messa nel grosso, un tubo anche da un pollice, va bene, ed è pronto a piazzare, anzi l'antenna è già finita per esattezza, ci vuole solamente quei terrieri che sono in campagna e basta, però lo stile tutto l'altro è già a posto, col piede già attaccato e tutto. Ma Antonio, ma se scendiamo giù in campagna e ritagliamo quel tubo là che c'hai tu? E poi dove ti attacchi a culo, se non c'è le tappe attaccate al muro. Le tappe adesso martirizzato le prendo, però la punta del trapano da 12 non esiste, massimo da 10. E la 10 come c'è anche scritto nelle tappe, non te lo ricordi, è la 10. E la 10, vabbè, vado dal brinco e prendo la punta e le tappe lì, e non so quanto le pago. Guarda, se ne trovi meno di 2,50 come sono qui sotto, le staffe le prendi e non c'è problema. E ti prendi anche la punta. A bucare non ci vuole molto, anche a metterci in cosa. Dopodiché una volta è bucato ci sono le staffe, ti metti il palo e sei a posto. Eia, ma scendiamo giù con il coso, con quella. Ci facciamo prestare la mola, lo tagliamo e lo piazziamo, o no? Prima di tutto devi bucare il boscato delle staffe, quando sei pronto con le staffe c'è le staffe, allora possiamo fare quello al volo. Capito? Ci vediamo martedì mattina, verso 10:30, 11, ti va bene? sono, sto lavorando, sì. E vabbè, augurati, augurati che, non lo so, proprio per aspettare che il tempo migliori e piantare quella roba, capito? Sì, vabbè, ma se vuoi salire stasera, pigliati tanto una sala, te la prendi, mi è già pronta, basta che non, la, non la spacchi, non comunque ce ne so. Non posso attaccarla, vero? Non la puoi attaccare, no, dove l'attacchi? Ci vuole il palo, largo. Che tu devi mettere la finestra aperta, al limite se la vuoi usare, la metti lì dentro e la utilizzi, con la finestra mezza aperta. Devo fare il collegamento il cavo di là, no? Con il PL. Sì, attaccato il PL e basta, perché il PLF me l'avevo già agganciato io sotto la base, competitivo di cavetto. Capito? Ci vuole un tubo da pollice e un quarto, ci vuole. Un pollice e un quarto, un pollice e mezzo, se no non va bene. Perché sotto c'è la basettina, se no ti tocca e va in corpo. Che immaginazione ce l'ho di che possa essere. Non so, basta, c'è anche lo 5, tu non sei mai cascato. Come faceva, boh, Falcone, mamma dammi il cinquino che devo dare da bere a Pompolio. Dile che mamma non ha soldi, intanto gli ha pagato un bel di roba, dunque non ha di nada. Hai capito perché? È appena arrivato Pompo, ha detto la mamma non c'ha soldi. Allora lì ha di fare un furto a tartello, va al circolo a piedi e tutto con i soldi. Oh marino, già è incarcerato il vicino, cazzo, tu pure va. Pigliatelo tutto quanto nel cuocero, Pompo, Va bene, va bene. Questa sera Nico, a Nico, ti avevo fatto fratello dare 5 euro. Lascia perdere, non ha neanche lui, che venerdì e sabato non verrà nessuno, il karaoke, dunque ha incassato poco e nulla. Sì, basta metterci due donne, cazzo, dietro al bancone, per stare maschi, due donne ci metti, senza il mutandino, però come riempie subito il circolo. Sì, non ci sono le due ragazze che fanno le capobanze lì. Fanno i cocktail, fanno tutto, però non ho bisogno di tornare così, che non ho bisogno di nulla, non vi ne ho preso. Mi fa che non c'è qualcosa. Dillo tu, fa che, ma non ci sono soldi, non c'è donne che tengono. Oh, devi mettere due belle cazzo color cioccolato, vedrai come attira la clientela. Sì, altro il cioccolato, le mettiamo alla valigia. C'era un circolo a Gatto Ferraglio un mese fa, nemmeno c'era una ragazza bella, veramente bella. Cosa va fatto? L'ha pigliato il circolo, quanto è durato? Ma un mese è durato, perché tutti sono parlati. Che bello, parlati, ma non ciccio, grazie. Ma io ho fatto il seguito all'inizio a Giuseppe, cazzo, bastano due color cioccolato, cazzo, non sono mettere le clienti. Troia! Comunque, ma che? Se faccio giovedì, faccio quella questione là, mi hanno detto di firmare quel contratto, cerca di venirmi a trovare, hai capito? Cazzo, non devo, ci ho passato la schiena. Non si contatto con il Bastiano. Dove devo trovare Giuseppe? No, via Prati, dentro il parco, là, lì dentro ci sono due bar. Uno è già andato e l'altro lo devo riprendere io con tutto. Se tutto va bene. Ah, già va bene, ah, già ci vengo a farti visita. Cazzo, ma dove venire a Santa Macchina a farti visita, cazzo. No, già ci vengo, là, no, ci sono problemi, Giuseppe. Ma tranquillo, prendilo la grande che vedrà che si gira poi si abbia e c'è un bambino giallo. Avanti con Buio, anche tu gli ci vieni, sì. Ah, poi c'è il po' del coso, non c'è problema. Il po' di gabbia di Ulivo, come mica i misteri, per quello già non ci sono problemi, Basta 300 con Buio. Così con un po' di nuda di chissà cosa. Adesso Sara non è più Sara, ma non si sa di chi sia. Il padre e la madre, cazzo, boh. Deve esserci fatto un triangolo di delle bermude tra cognati. Questa vita è tutto troiaio, caro Antonello, è tutto troiaio. Che è successo? Ma quegli avvocati sanno più cosa fare lì. Tutti in televisione sono andati a farsi dei drammi, perché ormai hanno già capito che lì si perde la causa. Non gli tirano manco una lira. Infatti. Yeah, dice degli americani. Yeah. Oh, io, per carità. Chi sta bene Giuseppe? Io? Magari fosse stato bene, ma che... Non c'è tutta questa situazione. Ma tranquillo, adesso ti sei fidanzato con la nipote del sindaco di Proaghe e si è appuso dopo pure me. Non ti ho capito perché. E ti sei fidanzato col sindaco con la nipote del sindaco di Proale. Ehi, la Mario Vecchia, questo lo diamo a chi sta mettendo il portante qua, capito? Vai tranquillo, che ci sarà il primo Laredo, da un capazzaio. Cazzo, è meglio lo ci venga, meglio lo ci venga. Se no cazzo mi va, ci ride a cazzo il va, perché... Riprende a te. A te è andata a passo il cicchetto, me. Per carità, per carità, qua, poi ce ne conriguardo come persona, cazzo, guarda, ma una persona così guarda, cazzo, non ho mai conosciuto gli anni che ci sono in frequenza, boh? Ah, potete dirmi, bisogna sapere sempre, c'è di qua che frequenza, bisogna sempre, Giuseppe, sempre ci saranno, se ne dà importanza, vai tranquillo che è di rigotolo, se c'è il padre di rigotolo, da voi. A me manco ma guazzano le passere con la Napoli. Ma io una cosa, ma te quanto ti arriva qualche di frequenza? Quanto ti arriva? Ah, Santiago Bassino, dai, a quanto riesci a tirarlo fuori. A me mi sta arrivando questo quando si capa e mi arriva portante forte, quasi 9 qualcosa. Basta c'è l'attivo della macchina, vedi che magari è arrivato a te. C'è stato che invece qua in zona del monte, hai capito? Ma non è che me ne posso pregare di un cazzo a me, no. Ma me ne porto un cazzo. Vedi lui che ti mette le scarpe la mattina. Ma me ne può fruttare un cazzo. Cappa cappa. Avanti, Antonello, ho perduto 10-4 bicchieri di terracello, no? O poi no, vieni avanti. No, sto costruendo un miracolo, l'ho fatto a Giuseppe, sto costruendo. Così almeno ci avrai mettato la casa sopra i bacchi che c'hai in casa. Ehi, ai, ai, va bene, hai visto l'aria? Giuseppe, non vuoi dire che non ti vuoi rivermi? Non c'è un po' di... sai cos'è, il caga cazzo, se hai dimenticato il dito in culo, Giuseppe, cosa ci vuoi fare? Va bene, dai, mi piattassiamo dove ho visto guarda della frequenza, che vuoi, che cocca farà qua con tu? Tutta la prossimina, la migliore, ciao vai, dai, a te, riprendi per i saluti che io stacco un attimo per fare una commissione uscita, dai, ce la riascoltiamo più tardi se cucina, dai. D'accordo, a dopo allora. Ciao. Ci sentiamo più tardi, se ci sia oppure domani, un buon trabacco per domani e salutiamo il cuore. Ah, benissimo Giuseppe. Ciao. Ciao lui, ciao. Antonio, Falchetto. Ah, vabbè, meno male ti sei ripreso. Ciao, Tony. Comunque, perché tu c'hai il nome mio, come il primo nome che ho io, hai capito? Antonio, io non sono Giuseppe, è il secondo nome, hai capito? Ehi, va bene, ciao. Ciao. Alessio, ci sei? Succede? Ah beh, allora sì che si può entrare. Ciao Sandrino, me l'ha soltanto, no, io guarda, c'era uno stupidino che cercava di passare, ma non c'era niente da fare. Comunque in compagnia di Giuseppe, in compagnia di Pomponi Alessio, va bene. Circolare a tutti. Ciao, Pomponio. Buongiorno, Pomponio, saluti, ben sentito. Ciao, Sandro, ben ascoltato. Ok, dai. No, sto cucinando il canale. Ho sentito questo baravango e ho detto, ma cosa c'è? Sempre un guasto in frequenza che quando fanno un discorso si mette in mezzo e rompe le scatole, cioè come la legge dei guasti. No, dai su, tanto sono cose che nella 27 sono sempre successe e sono cose che succederanno sempre. Vabbè, Sandri, dopo ti dica, uno quando arriva a un certo punto che è in frequenza, è nel canale, vabbè, non è mio, è di tutti, però se sta facendo un discorso deve lasciar finire il discorso e poi gentilmente entra, hai capito, chiedendo il prego e poi entra, come siamo abituati tutti, hai capito? Sì, lo so, però purtroppo sai com'è, a volte c'è chi riesce a percepire, c'è chi magari si diverte con quel po' che ha, dai, tutto lì. Vabbè, dai, Alessio, riprendi, te la dai. Sì, stavo mi, sto sistemando questo alimentatore per te, ho visto che qui c'è il trasformatore da cambiare. Ecco perché non funzionava. Va bene, ripigliatela pure, faccio un secondo di piano. Ehi, già, Sandro, ci sei? Già sono qua, dai. Già sono qua. Antonio, Farchetto, e allora? Allora, vabbè, ora mi stavo passando tutta l'armonia, me ne stavo passando l'armonia. No, mi dispiace che compri i segnali più bassi e rompo un po' le scatole, la verità si dica, sai, tutto qua. Sì, vabbè, dai. Va bene. Ah, lasciamo stare, dai. So cose che succedono. Scommetto che mi ascolti anche meglio. Sì, a fondo scala qua. Cosa, a fondo scala? Sì, è fondo scala, c'hai una modulazione, se ti do più di 5 si mettono a ridere, come dice Mario, e se ti do sì, a fondo scala, c'è poco da andare lontano, ma dove sei lì a campagna? Positivo, sono qua a San Giovanni, dai, con di H campagna. Ho capito, dai. No, adesso mi è venuto in mente quel discorso là che avevamo l'altra mattina dell'antenna, perché questa è la mantova alla turbo, dai. Sì, ho capito. Ma considera che tu sei lì in campagna, ma essendo lui giù da Papatango, con quella là, guarda che arriva abbastanza bene. Sì, appunto è quello che stavo facendo il ragionamento, Antonio, è quello lì. Allora qua sono un chilo di schioppo, cazzo, sono dal tetto, vedo tutto Sassari. Magari se sei in zona aperta, cazzo, se ti metti su un terrazzo, se ti vedo qualcosa ti faccio uscire con la mano e ci vediamo, per dirti in proporzione. Sì, proporzione, guarda che l'antenna che c'hai giù non è da disprezzare, Sandri. Sì, no, l'ho già valutato, niente da competere su questa qui, questa si può dire che la uso poco e niente, l'ho messa per un ospizio, si può dire. Che poi a utilizzarla, questa qui non la sto utilizzando niente. Però, tornando indietro, valutando, diciamo, come distanza, come cosa, come resa, io penso che quella resa sia migliore. Tutto lì. Sì. Beh, in effetti ti do conferma di quello che tu hai detto. Capito. Come distanza, come resa è molto migliore quella lì. Capito, non quella che stiamo durando adesso, l'altra. Dimmi una cosa, è lì come ti arriva quelle coordinate rispetto a Papatango? Sì, Anto, guarda, non ti posso dare un controllo perché questo c'è uno smitter che non l'ho mai capito. Uno smitter tutto quanto avaro. Allora, il segnale più forte che mi arriva adesso per dire tu mi stai arrivando 9 più 25 con picchi di 9,60. Adesso non so se è giusto o è sbagliato. È un smitter per i cacchi suoi. Ho capito. Ho capito, ma in effetti così, ma ha una buona recensione, non è un brutto antenna, però rispetto a quella che c'è giù a Papatango, boh, io quella di Papatango la sento molto più chiara, più pulita, più, boh, non lo so, questo devi verificarlo anche tu sentendomi da lì a Papatango, capito la differenza che ti voglio far notare io così? No, vabbè, diciamo che qua ti sento molto più chiaro, qua ti sento molto più bello, limpido, pimpante, proprio una bella una radio 5 bella pimpante, e siamo anche vicini, capito? Siamo anche vicini, quindi c'è anche quello lì da considerare. A promotore ti ascolto bene, stesso radio 5 bene, tutto quanto. L'unica cosa è sono due antenne, una diversa dall'altra, per fare la valutazione la devi mettere vicino e fare sia recensione che trasmissione. Allora sì. Positivo. Abbiamo lasciato un po' Giuseppe in bianco. Guardi Giuseppe, ci sei ancora? Giuseppe poi sarà a casa. Allora, riprendete la tua popo. Giuseppe, bisogna anche tu. Se tu vuoi qualche passaggio, almeno con l'antenna corrente a casa la posta ci va bene. Sempre sono la sfascia, torna. Positivo. Tu lo senti a Pomponio, Federico? Sì. No, già lo sento. Lo sento tranquillamente. Sì, ma lei... Allora, io l'antenna che ho giù a Bonotorrese è una Sirio 2002, senz'altro la conosci, almeno la descrizione è uguale a quella che c'è a Antonio. Questa che sto utilizzando adesso è una Mantova Turbo, totalmente diversa come antenna. Sirio 2002, però c'è la carica dentro quella fa in questi grassi. No, ha una bobina in rame, di un rame circolare di circa 6 mm, capito? Una specie di carica sulla base proprio, capito? Non è come questa che c'è la spirale in alluminio, in tubo in alluminio. Ci ho capito già, in pratica di questi tratti c'è da fare, si vede la carica dall'esterno, va? E ricoperta la si vede? No, si vede benissimo, non è coperta da niente, è liberissima, tu la vedi, la tocchi, ci fai quello che vuoi, non è che ha una protezione per dire un tubo trasparente, è proprio libera, molto radiale come questa. Non lo so, non la conosco allora come antenna, non so che va bene la Sirio, ma l'Orme mi sembra che non c'era una cosa del genere, non c'era l'Orme, no? No, è la Sirio 2002 se non sbaglio, dovrei avere qua il Deplian. Dovrei avere Deplian, aspetta un secondo, vediamo un po' se ce l'ho. Ma ce l'ho, l'avevo portata, eccola qua. No, no. Male mie, questo è lo schema della Mantova Turbo. La Mantova Turbo, la Sirio. E chissà dove ce l'ho messo. Comunque, è un'antenna uguale, 8 radiali. 8 radiali c'ha la... a posto di avere la spirale in tubo d'alluminio come la Mantova, ha una carica, diciamo una specie di carica di un avvolgimento in rame, di corrame rosso, capito? Il rosso sarà un 6 mm. Ma quando è grosso è tappato da una da qualcosa, tipo la spazio 8000 di mare. Volevo di 50 ricaricata, poi frequenza 26-29, potenza 2000 watt, 50 watt, vabbè, lunghezza, c'è guadagno 8 dB, allora questa antenna 6 metri. Deve essere tipo questa, non lo so. Perché poi c'è la superlobe, invece la superlobe c'ha la carica in alluminio, che la puoi toccare a mano. C'ha 1, 2, 3, 4, la carica a 4 spire c'ha. No. Allora, te l'ho detto, c'ha 8 radiali in tubi in alluminio, come c'ha questa della Mantova. La Mantova sotto c'ha una piastra dove infili e ci infili i dadini. Invece su quella là c'ha per ogni singolo radiale c'ha una vite a brugola dove prendi e le stringi. E più questa carica è rame. Invece la Mantova c'ha questa spirale in alluminio. Quando non la conosco, la verità non la conosco, non so cosa dirti. Quindi esce bene la verità, questo che esce perfetto. No, guarda, è proporzione, diciamo, mi sono accorto che ha una buona ricezione, una bella trasmissione, insomma, però per poterlo valutare sono due antenne diverse, magari mettendole vicino, provandole tutte e due, prima un passaggio e poi l'altra, poi magari ti accorgi, tutto lì. Ripetila tu. Ehi. E infatti a Toledo intendevo dire, questa carica che c'ha di serpentina, diciamo, in rame, ha qualcosa che lo riveste, no? Non può stare all'esterno senza rivestimento, un qualcosa trasparente nel rivestimento ce l'ha l'antenna tua, parlo dell'assidio, ecco. No, non c'è niente del rivestimento. Allora, tu hai presente un filo in rame, della grossezza di circa 6 mm. Rosso sarà, diciamo, una protezione, sarà plastificato questo rame, e su una spirale sarà alta, quale posso dire, almeno un 20 centimetri, buono, 20-25 centimetri. Ah, e allora dove sarà quel rame rivestito in gomma, senza rossa, e potrebbe stare alle del piedi, ecco, tutto lì. E poi la stessa così, mio Antone. E infatti non l'ho mai vista con l'antenna, la verità. Ma cosa quanto non esce una roba? Non lo so, io ho cercato la roba della GBC, ma non c'è. Trattavo con me lo stesso e no, non c'è lo stesso, boh, non lo so chi... Forse le fa la cosa, c'è la pareggio Giograssi, ma non la conosco con l'antenna. Riprendi, sa che passo un attimo di piano, come sta suonando il telefono. Ok. Sì, e adesso qua non mi ritrovo. Non mi ritrovo il fogliettino che c'è. Il fogliettino che c'è dentro la confezione. Non me lo ritrovo. ce la farò in giro comunque. Sì. Ma è dell'assedio comunque. L'assedio 8002, se non ricordo male. Tutto lì. Tutto lì. Va bene. L'antenna comunque, visto che va bene, stai scendo bene, sei nato qua, è qualche cosa. Ok, vabbè, è da valutare che qua, siamo abbastanza vicini, insomma, no? in tiro d'aria, in lontananza, diciamo, siamo molto molto vicini, quindi non è una valutazione da fare, è così. Giovanni, io sei più vicino di quello, per se la verità. Ti ho capito, Ori. Se sia San Giovanni, per quanto sei più vicino. Appunto. Quindi siamo molto molto vicini, capito? Siamo molto vicini, quindi non è che puoi fare una valutazione. La valutazione la si può fare quando, per dire, le metti due antenne vicino, per dire, calcola che le distanze da 2-3 metri una distante dall'altra, prima provi una, poi provi l'altra e ti accorgi quale potrebbe essere la differenza. Ma differenza non so se ce ne potrebbe essere. Io non penso che ci sia differenza, penso che siamo tenuti allo stesso guadagno. Penso già pari bene lo stesso. Ok. Dai, un attimino di bianco per me, lì che mi hanno chiamato per la caffeina. D'accordo, vado per la buona caffeina. Due staffe da 10 per il muro e un palo da un pollice. No, un pollice non va bene per l'antenna, ci vuole un pollice un quarto, un pollice e mezzo almeno, capito? Va bene, uno di quei di quei tubi leggeri che abbiamo visto qua sotto mi ti prendi e va bene. Poi mettiamo un paletto noi, intanto mettiamo al contrario e così sei più tranquillo. Pollice e mezzo, ha detto. Un pollice e mezzo, è a meno. Adesso ve lo lì al brico, quanto costa. Non so se è aperto adesso o chiuso lì a cosa, capito? È a poco, c'è scritto qua proprio di domenica. È a poco, a che cosa c'è al mercato oggi, quanto è aperto anche il brico? È andato a fare la spesa? Sono andato a fare la spesa così stamattina. E sei sceso in treno, in tram? Sì, in tram, non so, in macchina, in tram. In macchina sono uscito. Lo senti quando rumore il telefono? No, non lo sento io, per niente. E poi ti metto a cosa, al collo, ti fa portare l'antenna a casa tua. Magari un palo così ce l'ha a me, intervistato. Al limite la... apri la palla per la volandina, appoggi di te, ecco, parli così. Capo. Vabbè, lo vediamo martedì, dai, come se riesco a buscare i soldi, andiamo a fare quella roba. Con 10 euro ci usciranno quella roba, no? Sì, a voi di accesso, penso di via cesta. Guarda che a casa mi colorate, mi ha telefonato un momento fa, mi ha telefonato. Voleva bene passare l'amico, quindi... Prova a telefonargli se c'è il numero di telefono, al limite se passa da te, io l'antenna te la faccio passare. Che cosa gli dai? A chiamare, stai dicendo? Sì. Beh, lo vuole. Mi ha telefonato stamattina che voleva andare da Nico stasera. Al limite dei telefoni ti scende l'antenna, no? Non dargli niente a quello, non dargli nulla, hai capito? Segnati questo numero di telefono, Alessio. Ah, non mi danno niente a questa barattina, già ci vediamo martedì, o domani, al limite, se c'è i soldi, no? A futti dì, al limite, boh, se capita che che magari passa qui lui, l'ha portato suo fratello, non c'è problema. No, io vengo io a prenderla, dai, no? Non dargli niente a quello, non dargli nulla. Non lo so se ce la ci passo e... non lo so, è molto difficile. Vabbè, dai, comunque ci sentiamo massimo martedì mattina, dai. Se riesco a buscare questi soldi, questi 10 euro, andiamo giù a Cogio e lo prendiamo, hai capito? Va bene, d'accordo. Sì, vabbè, dai, già sono qua, io sono in frequenza, dai. Quattro fatti muovere la casa, non da casa, dalla macchina. Al limite ti scende qualcosa. Già sei vicino, vedi, sei lontano. Va bene, va bene. No, io c'ho questo tricolo, Oesio, da farti vedere se si può fare qualcosa, capito? Dunque, perché l'abbiamo provato nel circolo da Nico, le spie accendono, però non ho, hai capito, no, messo presa a scarica tutto quanto, se funzionava con le corde, con l'antenna di mio fratello, tutto quanto, però no, ho visto che no, vorrà cambiare qualche elemento, boh. Ma che cosa, il televisore? Il decoro del televisore. Beh, che con il televisore la spia rossa accende, così è. Sì, accende la rossa e quella verde, hai capito? E allora la scarpa non funziona. Cambia la scarpa. Ah, la presa la scarpa. Sì, cambia la scarpa. Tu fai al contrario, quella che sì, tu pensi sia difettosa per la passa al televisore. E l'altra la metti alla ricevitore. Vabbè, adesso vedo un po', dai. Vediamo un po', a provare a casa, vediamo un po'. Ah, cioè glielo chiedo se ce l'ha questo palo da un pollice e mezzo, se ce l'ha questo signore, se me lo dà. È andato un pezzo, mi dà 50 centimetri anche, se ce l'ha, 57 centimetri. Lo salvo a quel tubo fino a che ti ha portato, va bene lo stesso, lo tubo da un pollice, non lo so. Serve più che altro per fargli sostegno alla basetta della Grand Prix, che il palo più piccolo non permette, lo sai che c'è la basetta dentro. C'è un po' che va in conto. Ci vuole proprio un pollice un quarto, al limite si salda, si fa saldare da qualcuno. Con la saldatrice fa i due punti, non è che costa niente. Ecco, adesso glielo chiedo se c'era questo palo da un pollice e mezzo, vediamo. È un pollice un quarto, un pollice e mezzo, basta che sia un po' più largo, di un pollice, capito? Ma lo senti giusto giusto, poi ci vuole la base, poi lo portate alla base lì da dove c'è il palo, fate entrare giusto giusto, dopodiché altrimenti si è a posto, sono 50 centimetri, non è che ci voglia molto, con una mola, con una tagliata, poi si porta a qualcuno e si salda, come se no ti compri la gaffa palo a palo. E va bene lo stesso, per quella che abbiamo visto l'altro giorno. Quella che ha fatto di palo a palo e ha fatto 13. E vabbè, dai. Ne parliamo martedì con calma, facciamo tutto quanto, dai. Sì, vabbè, vabbè. Ti lascio un po' in frequenza, rimango qua, io tanto mi sto ascoltando le partite, dai. Certo. Potrei chiedere a cercare il suo servizio.